sangue e nome, d'onore e cognome. Siamo già schedati prima d'essere nati. Figlio del postino, figlio del ministro, figlio del sesso, del progresso. Ha senso questo ansimare? Come donne, come foglie, nel stesso dramma dondolare e cadere. È un andazzo criminale. Cielo e terra senza tregua, cielo e terra in conflitto. Siamo figli dello stesso mondo in affitto. Acqua, aria, vento, fuoco, coprirmi da questo vuoto. Aria, vento, fuoco, copritemi da questo vuoto. Sono solo in mezzo a tanti, sono lo scarto dei paganti. Di uno spettacolo già visto, chi ha vinto e vinto, non c'è scampo. Lavateci i pensieri coi telegiornali, lasciateci vagare in un campo minato che intanto ora grida al cielo, solamente al cielo sono libero. Cercasi lavoro e un po' di buona fede per sperare di poter sperare. Figlio di operaio, figlio di papà, con la camicia già cucita addosso, è una selezione naturale. Come donna, come manichino in un negozio alimentare, è tanto inutile guardarsi. Nubi fragili, illusioni, senza sconto né scontrino, puoi multarci anche per questo. Acqua, aria, vento, fuoco, copritemi da questo vuoto. Acqua, aria, vento, fuoco, copritemi da questo vuoto che ho. Sono solo in mezzo a tanti, sono lo scarto dei paganti. Uno spettacolo già visto, chi ha vinto è vinto, non c'è scampo. Lavateci i pensieri coi telegiornali, lasciateci vagare in questo vortice amaro che intanto ora grida al cielo, solamente al cielo sono libero. Anche se in catene libero.